nuovo mixer digitale. Un misterioso fruscio sul canale 24. Voci e brandelli di notizie da una radio del domani. Questo è... Canale 24. Reportage dal futuro di Maurizio Melis. Benvenuti a Canale 24. Come sempre partiamo dalla nostra notizia dal futuro per introdurre il tema della puntata. Sentiamo. Come sapete, questa settimana una notizia ha fatto il giro del mondo. Parliamo della fuga di cavallette della specie Caelifera edulis, che si è verificata in un allevamento in Francia, vicino Lione. Circa 1 milione di individui sono sfuggiti attraverso un varco aperto da una violenta grandinata nelle voliere in cui vengono cresciuti questi insetti, ormai entrati stabilmente anche nella dieta italiana. I saltimbocca al prosecco sono ormai una specialità veneta. La Caelifera edulis è un insetto OGM di grandi dimensioni e molto vorace. Lo sciame ha divorato, distruggendolo, il parco botanico vicino e causato problemi alla circolazione stradale. Le associazioni ambientaliste chiedono norme più severe sugli allevamenti per evitare altri episodi simili. Bene, torniamo in studio e presentiamo subito il nostro ospite di oggi, che è Dario Bressanini, ricercatore dell'Università dell'Insubria, divulgatore scientifico veramente famoso tra chef e appassionati di cibo per i suoi libri e le sue rubriche sulla scienza in cucina e anche su tutto quanto concerne frodi alimentari, miti alimentari, superstizioni alimentari. La sua ultima fatica a proposito di libri è Contro Natura, dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste nel cibo che portiamo in tavola, edizioni Rizzoli. Benvenuto Dario Bressanini. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, abbiamo voluto iniziare con una notizia dal futuro un po' provocatoria, immaginando non solo che in futuro mangeremo insetti, ma addirittura OGM. Iniziamo da qui. Ti sembra uno scenario possibile? Plausibile, se è possibile non lo so, è plausibile per quel che riguarda gli OGM, forse un po' meno, almeno qui in Italia, per quel che riguarda gli insetti, perché ci sono delle, diciamo, resistenze culturali e gastronomiche, però gli animali OGM in realtà esistono già e stanno arrivando sui mercati, ancora una volta non in Italia, ma per esempio negli Stati Uniti è già stato approvato un salmone OGM che cresce 3 volte più velocemente del salmone convenzionale. Ci sono maiali OGM già esistenti che dovrebbero inquinare di meno e così via. Quindi, ma secondo me, se fra 10, 20 anni, 30 anni, diciamo, gli animali OGM saranno così, non dico una realtà su tutte le tavole, però diciamo di sicuro in alcuni mercati ci saranno già. Un fatto comunque normale. In realtà è normale per gran parte del mondo anche già oggi mangiare gli insetti. Sentiamo una scheda su questo argomento. Gli insetti, parenti stretti dei crostacei, di cui spesso hanno anche il sapore, rappresentano un'eccellente fonte di cibo a basso impatto ambientale. Con 10 kg di mangime si ottengono 1 kg di carne di manzo o 6 kg di insetti, la cui riproduzione produce 100 volte meno gas serra rispetto al bestiame e consuma una quantità esigua di acqua. Lombrichi, grilli, varie camole e larve hanno concentrazioni di proteine superiori a quelle che si trovano in un filetto di chianina e vengono considerati un ingrediente prelibato in molte culture. In pratica è solo l'Occidente a non consumarli. Per cercare di superare questa riluttanza, sono nate startup che hanno messo a punto prodotti contenenti proteine di insetto, come la barretta al muesli a base di larve della farina, messa a punto dai ricercatori della Società Svizzera di Scienza e Tecnologia degli Alimenti. Bene, torniamo in studio. Veniamo, Dario, al tema degli OGM. Sappiamo bene che l'Italia ha regole rigidissime per quanto concerne addirittura la loro sperimentazione, che è vietata in campo aperto. Col passare degli anni, però, insomma, molte delle preoccupazioni che inizialmente, anche legittimamente, forse erano legate agli OGM, insomma, sono state poi smentite dai fatti. Direi che a livello di comunità scientifica molti dei dibattiti a cui assistiamo oggi, magari in televisione, sono considerati del tutto superati. Tu sei un esperto di questo argomento. E allora, intanto, il tema della salubrità, no? Si temeva che facessero male questi OGM. Non è che si temeva. La domanda che si sono posti gli scienziati inizialmente era: il fatto di andare a modificare, a inserire inserire dei geni può intrinsecamente creare dei prodotti pericolosi, e insomma le ricerche sono andate avanti per insomma ormai 20 anni, e la risposta è rassicurante, nel senso che non è la modifica genetica in sé che può creare un problema eventuale per la salute. Un'altra obiezione era la paura che in qualche modo infestassero, diciamo, l'ecosistema, sostituissero le culture tradizionali. Allora, questo è un problema che si è studiato e si studia tuttora, anche qui non per tutti gli OGM, ma solamente per quelli che possono potenzialmente dare questo problema. Quello che adesso appunto pensano gli scienziati è che per esempio non sia una buona idea coltivare OGM di una certa, diciamo, di una certa specie nella zona di origine della stessa specie, questo per preservare la, diciamo, la biodiversità. Quindi, secondo gli scienziati, per esempio, nella zona d'origine del mais non si dovrebbe piantare mais transgenico e così via. Dario, prima di continuare, sempre a proposito di OGM, c'è una notizia che li riguarda, che è rilevante oltre che dal punto di vista scientifico, direi ancor più dal punto di vista filosofico. Sentite un po'. Scoperto per la prima volta un OGM naturale, è la patata dolce. Un'equipe internazionale di ricercatori ha pubblicato su PNAS la scoperta che nel DNA della patata dolce, detta anche patata americana, sono presenti geni di Agrobacterium, lo stesso batterio utilizzato dagli scienziati come veicolo per introdurre modifiche genetiche nelle piante e creare organismi OGM. Il gene in questione è attivo ed è presente in alcune specie selvatiche e in tutte le 300 varietà di patate dolci coltivate dall'uomo. Questo fa presumere che la caratteristica conferita alla patata dolce da Agrobacterium sia stata selezionata positivamente dagli agricoltori a partire da 8.000 anni fa, epoca a cui risale l'addomesticamento di questa pianta. Insomma, per quanto molto rari in natura, gli OGM non sono stati inventati dall'uomo. Ecco Dario, forse alcune delle cose che abbiamo detto, che abbiamo sentito, le capiamo un po' meglio se capiamo che cos'è un OGM, in che modo differisce da altre tecniche di ingegneria genetica. Questo è il punto cruciale che spesso sfugge nelle discussioni pubbliche. Partiamo da un fatto molto banale: tutto quello che noi mangiamo è stato modificato geneticamente nel corso dei secoli e dei millenni, nel senso che le mutazioni genetiche avvengono continuamente. Noi, i pomodori adesso sono rossi, una volta erano piccoli e gialli e così via. Quindi i geni continuano a cambiare, ecco. Nel corso dei secoli, di più nell'ultimo secolo, ha imparato a modificare i geni in modo sempre più mirato. Ecco. Prima lo si faceva selezionando la pianta un po' più grandicella, un po' più saporita, adesso lo si fa intervenendo direttamente sul patrimonio genetico, no? Abbiamo queste tecniche. C'è stato però un periodo intermedio in cui si modificavano con sostanze chimiche, con delle radiazioni. Allora, OGM non è una caratteristica biologica, l'essere OGM o meno, è il fatto di essere o stati ottenuti con delle tecniche che prendono un gene e lo possono trasferire da una specie all'altra. Ecco, è proprio qua il punto, prendere un gene di una specie e trasferirla in un'altra, perché se io modifico il genoma di una specie, indipendentemente da come lo modifico, quello non è un OGM, è un'altra roba, è un GM. Perché la legge stabilisce che alcune tecniche di manipolazione genetica sono da considerare come diciamo, OGM e altre no. È una distinzione, diciamo, abbastanza arbitraria. Fammi qualche esempio. Ma per esempio diciamo, esiste una soia resistente ai diserbanti, che noi non è coltivabile in Italia, ma la importiamo perché la usiamo come mangime animale. Esatto. E questa è un OGM perché quel gene è stato prelevato con queste tecniche di ingegneria genetica da un'altra specie. Però per esempio più del 30% del riso coltivato in Italia resiste anch'esso a un diserbante, contiene un gene brevettato che non appartiene normalmente alle varietà di riso che si coltivavano una volta, però questo non è un OGM tecnicamente, legalmente, perché è stato ottenuto con delle modifiche chimiche. Quindi il paradosso è che abbiamo due piante che hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche, cioè una resistenza indotta a dei diserbanti sostanzialmente. E quindi diciamo, uno deve comprare il diserbante di una certa azienda, deve firmare dei contratti, così via. Dal punto di vista pratico sono la stessa cosa, però la legge dice la soia è OGM e quindi va regolamentata perché l'abbiamo ottenuta con queste tecniche di biotecnologia, Il riso invece no, perché l'abbiamo tenuto con un'altra tecnica. E si potrebbero fare molti esempi. Molto del grano duro che mangiamo noi oggi ed è tradizionale della nostra alimentazione è stato ottenuto negli anni 50, 60, 70 per irraggiamento con raggi gamma, con radiazioni. Esattamente. E lì non si sapeva neanche bene che mutazioni avvenivano naturalmente. Insomma, siamo un po' di fronte a una distinzione quasi, quasi artificiosa, no? Quello che invece dovremmo forse guardare è valutare caso per caso se quella specie, se quell'organismo geneticamente modificato può rappresentare un problema. E oggi in effetti vediamo che di OGM davvero utili all'ambiente, alla lotta contro la fame, se ne vedono pochissimi, mentre vengono sviluppati OGM con caratteristiche che sono oggettivamente ad uso e consumo delle grandi multinazionali dei semi e della chimica. Sì, questo è vero, ma il motivo è molto semplice, proprio perché la ricerca pubblica, che dovrebbe essere quella che diciamo per DNA, diciamo così, dovrebbe occuparsi di cose di questo dell'interesse tipo, collettivo anche. Sì, esatto, anche perché la paghiamo tutti noi con le nostre tasse e non riesce a farlo, e quindi diciamo il campo è stato lasciato libero alle multinazionali, che ovviamente pensano ai loro interessi. Sull'ambiente anche lì il punto è andare a vedere caso per caso, perché è chiaro che una pianta che resiste per esempio a un diserbante è molto amata dai coltivatori, dagli agricoltori, perché gli semplifica la vita, però è giusto chiedersi il diciamo l'effetto finale, certo, sull'ambiente, perché questo può portare anche a un incremento di uso di diserbanti. Ecco, quali sono invece delle caratteristiche desiderabili che possiamo immaginare di ottenere con le tecniche OGM nel cibo che mangiamo, insomma? Quelle di resistenza alle malattie, soprattutto per colture che non interessano alle grandi multinazionali, perché sono magari piccole colture. Pensiamo all'esempio degli olivi in Puglia, diciamo attaccati da questa malattia, sì, o i kiwi, le mele, per esempio le mele del Trentino, della Val d'Aosta, in tutta Italia, in tutta Europa sono attaccate da dei funghi. Una mela che resiste ai funghi ed è stata sviluppata a Bologna da un'università pubblica dal professor Sansavini, ma non è mai stata provata, proprio perché viene trattata diciamo alla stregua della soia che resiste ai diserbanti. Quindi si fa di tutta erba un fascio e non si distingue pianta per pianta. Una delle grandi speranze era il cosiddetto golden rice, no? Questo riso ricco di vitamina A. Anche qui però sui campi è arrivato poco. Sui campi non è ancora arrivato, perché ha subito tutta una serie di problemi di autorizzazioni, vandalismi dei campi di attivisti che diciamo lo vedono un po' come il fumo negli occhi. Perché non sanno come contestarlo questo golden rice. Sì, diciamo che viene visto un po' come il cavallo di Troia, dicono loro. E poi perché comunque ci vuole tempo per diciamo, portare un OGM dal laboratorio al piatto. Grazie Dario Bressanini. Grazie a voi. Bene, ci fermiamo qui, appuntamento a settimana prossima.